Il calcio entrerà subito dopo questa emergenza in un momento di grande crisi. La mia preoccupazione più grande è che dopo il Covid-19 noi siamo costretti nel dover raccogliere delle macerie. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La nostra deadline, come ho detto dal primo momento, è il 30 giugno. Comunque l'obiettivo è concludere il campionato di calcio della stagione 19-20. Se ha poco tempo a disposizione, mi sono permesso di proporre i play-off e play-out. Perché questo? Perché comunque il valore della competizione sul campo credo che sia il modo migliore per assegnare un titolo e per individuare promozioni e retrocessioni. Promozioni e retrocessioni. L'altra ipotesi è quella che si arrivi al congelamento della classifica e questo genererebbe comunque delle tensioni facilmente intuibili. L'ultima, che io, credetemi, la escludo, è quella di non assegnare il titolo. Mi puoi confermare che ovviamente 99,9 periodico per cento l'europeo se ne riparla tra 14 mesi, ovvero la prossima estate. Questo me lo confermi, Press? È probabile. Credo che sia la soluzione più giusta in questo momento. E questo era il presidente della Federcalcio Gravina ieri a Sport Italia. Domani invece sarà a questi microfoni Gabriele Gravina, mentre in questo momento si sta decidendo il nuovo calendario calcistico, quello della ripresa. Anita Panizza, oltre a Claudio Schiattone in redazione, Carmelo Lauricelli in regia, Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Ciao, adesso ciao, tra poco Alessandro Alciato da Sky ha appena raccontato ai telespettatori di Sky cosa sta succedendo in questa giornata calcistica. A che punto siamo, Alessandro? Ciao. Buon pomeriggio, siamo al punto di svolta, nel senso che l'europeo si giocherà nel 2021, non più nel 2020. Questo è stato deciso durante le riunioni in videoconferenza degli stati generali della UEFA. Perché non c'è ancora un comunicato ufficiale? Perché fra poco inizierà la riunione definitiva, quella della commissione della UEFA, che ratificherà proprio la decisione presa in videoconferenza questa mattina, e nel pomeriggio appunto verrà comunicato che l'europeo si giocherà nel 2021. In realtà le riunioni sono state due: la prima con la UEFA, ovviamente, con l'ECA, cioè i club europei, l'associazione presieduta da Andrea Agnelli, le varie leghe e i rappresentanti della FIFPro, cioè del sindacato dei calciatori. Poi in un secondo momento sono entrati in campo, diciamo così, i rappresentanti delle 55 federazioni che compongono la UEFA. Per quanto riguarda l'Italia, Gabriele Gravina, che è il presidente federale, e Brunelli, che è il direttore generale, e insomma sostanzialmente all'unanimità è stato deciso di posticipare l'europeo al 2021. Ve lo ripeto, solo il comitato esecutivo della UEFA nel pomeriggio voterà e ratificherà la decisione. Questo comporta anche altre decisioni che sono state prese, che verranno ufficializzate nel pomeriggio. Intanto che i vari campionati nazionali, in questo caso anche la Serie A, dovranno concludersi entro l'estate. Al momento entro l'estate è generico, poi nel corso delle prossime ore capiremo cosa significhi entro l'estate, se entro l'inizio dell'estate, entro la fine dell'estate, ma questo lo capiremo nel pomeriggio. E poi sono stati varati due tavoli in cui verranno decise: uno, i calendari, e per quanto riguarda il secondo tavolo di studio, le ripercussioni finanziarie che avranno tutte le decisioni che stanno uscendo e stanno nascendo proprio in questi minuti. E poi, ultima cosa, ma anche questa insomma si capirà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, verranno rischedulati, come dicono quelli bravi, i campionati europei femminili, il programma del 2021, i campionati europei under 21 e anche la prima edizione del nuovo campionato del mondo per club organizzato dalla FIFA, che si sarebbe dovuto disputare in Cina fra giugno e luglio del 2021, ma fra giugno e luglio del 2021 in realtà si giocheranno i campionati europei. Diciamo che è stata una videoconferenza molto intensa, sono state prese decisioni importanti e altre arriveranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Un'altra possibilità, Alessandro, che si era ventilata per gli europei era quella di novembre-dicembre, non mi pare nemmeno stata presa in considerazione. Eccolo, ciao Piano. Minimamente, però alla fine è stato deciso che il periodo migliore sarebbe stato proprio quello in cui si sarebbe dovuto giocare l'Europeo del 2020, quindi fra metà giugno e metà luglio, però tutto posticipato. A me sembrano decisioni di estremo buon senso, Pierluigi. Sì, sì, buon senso, anche perché poi ricordiamoci che il Mondiale sarà comunque in autunno, quindi anche da un punto di vista di distanza fra un evento e l'altro. Questi giorni siamo tutti molto attenti alle distanze di un metro, due metri dalle altre persone. Qui la distanza degli eventi è un tema molto più frivolo, però insomma mi piace questa idea, perché a questo punto i campionati speriamo che quest'anno possano comunque finire entro l'estate, che ci possa essere un po' di stacco e che poi, certo, la prossima stagione sarà molto compressa, però vabbè, amen, non si può avere tutto, la situazione è emergenziale. No, chiedo ad Alessandro, ho letto delle agenzie sul fatto che ci sarebbe una discussione tra le società e l'UEFA su una richiesta di un contributo da parte dell'UEFA alle società. Le società invece vorrebbero che venisse stanziata una cifra, ovviamente per i danni economici che ci sono nello spostamento dell'Europeo, che c'è una voce di bilancio dell'UEFA proprio legata ai disaster, no? Quindi alle calamità che non sono in qualche modo prevedibili. Ti risulta? Sì, diciamo che una decisione definitiva, Pier, non è ancora stata presa, e uno dei due tavoli di cui parlavo poco fa è nato proprio per quello, per capire insomma le perdite come dovranno essere divise. Ci sono delle linee guida, ma insomma ancora in questo momento se ne sta parlando, e sicuramente a tutti verrà chiesto un contributo più o meno importante, ma a tutte le parti in causa verrà chiesto un contributo. Come verrà diviso, questo insomma lo capiremo, ripeto, non nei prossimi minuti, forse nelle prossime ore, probabilmente nei prossimi giorni. Alessandro, tu per chiudere con te, ti immagini una stagione dei club che finisca oltre il 30 giugno, quindi utilizzando sostanzialmente le date che erano previste per gli europei, che il cui termine era fissato a metà luglio, 14? Ora qui ti do una mia opinione personale, cioè una mia sensazione. È una possibilità, perché probabilmente oggi la UEFA, nel comunicato ufficiale che emetterà, scriverà che i campionati nazionali dovranno essere conclusi entro l'estate, come vi dicevo, entro l'estate al momento è abbastanza generico, situazione coronavirus permettendo, quindi questo lascia aperta una porta, credo più al fatto di poter andare oltre il 30 giugno che ad annullare i campionati di cui si parla, quindi insomma io non la vedo come un'ipotesi irrealizzabile questa, e vi dico di più, perché insomma in questi minuti un po' di informazioni arrivano, ma vi ripeto, ufficialità solo nel pomeriggio. Al momento la finale di Champions League in programma di Istanbul è stata posticipata al 27 di giugno, però prendetela con le molle, nel senso che se ne sta discutendo proprio in questi minuti, però una data indicativa è il 27 giugno, sempre legata alla situazione del coronavirus. Evidente. Perché la vera incognita, mettiamocelo, è proprio capire quando si potrà ricominciare a giocare. Certo. E da lì si partirà. Ma al momento si tiene in piedi il format così com'è o già ci si è in qualche modo arresi alle Final Four? No, ci saranno, c'è il tavolo che è stato varato per parlare dei calendari, deciderà questo, ma non c'è una decisione definitiva, almeno al momento, in questi minuti non c'è ancora, proprio perché ci saranno delle ipotesi, cioè se si inizia al tal giorno, si finirà al tal giorno. Se si inizia dopo, allora sarà necessario comprimere il calendario anche delle coppe. però ve lo ripeto, cioè la vera incognita, e qui nessuno ha la risposta purtroppo, è quando si ricomincerà a giocare, cioè si ricomincerà a giocare quando la situazione non solo del nostro paese ma di tutti i paesi lo permetterà, e nessuno ha la bacchetta magica per rispondere. Sì, sì, questo è chiaro. Poi anche sul fronte interno è aperta la disputa sui playoff. A proposito, è chiaro che stiamo facendo delle ipotesi, e che a questo punto ci piacerebbe qualunque cosa, no? Perché ricominciare a giocare vorrebbe dire essere usciti da questa situazione. C'è la disputa su playoff oppure no. A molti non piacciono i playoff, stiamo, ripeto, parlando in astratto. Voi che ne pensate, Pier? A me non piacciono molto, però io credo veramente che siamo in una situazione di tale emergenza che già parlare di queste cose mi sembra... è il nostro lavoro ed è una cosa che ci interessa, che ci piace, che ci dà anche in qualche modo normalità, ed è giusto farlo. Però insomma, francamente è chiaro che in questi momenti le priorità sono altre. I playoff non mi piacciono tanto, non perché non mi piacciono in assoluto, ma perché un campionato come questo, nel quale a un certo punto entro in scena i playoff, insomma tutto diventa arbitrario. Quante squadre? 2, 4, 8, 6, cioè diventa tutto molto molto arbitrario, aleatorio. Ci sono delle differenze comunque in classifica accumulate nei primi due terzi del campionato che devi trovare il modo di far pesare, perché insomma non è che puoi pensare di far ripartire o di fare partita a gara secca, faccio per dirti Juve, però quello è lo spirito prima contro la quarta, quello è lo spirito dei playoff, cioè sì, a prescindere dal ranking della regola prima, secondo me devi deciderlo prima, sinceramente, sai, come sai io non me ne frega niente di chi vince nel campionato, lo può vincere chiunque, però insomma secondo me ci sono delle, in questo momento, delle gerarchie che si sono create nelle prime 26 giornate e bisogna trovare un modo per farle rispettare, queste gerarchie, quindi francamente non mi fa impazzire. Detto questo, poi se li faranno ma va benissimo, basta che si torni a giocare a pallone, però non mi sembra la soluzione più giusta. Allora a quel punto mi sembra meglio, bisognerà capire quante partite avremo, dai. Intanto, se posso interrompervi, sì, certo. Carlo, siccome le notizie arrivano di secondo in secondo, prima mi hai chiesto se mi immagino una stagione che va da oltre il 30 giugno, io ti ho detto sì, e questa possibilità resta, però ti dico anche che al momento, sottolineo al momento, la deadline della stagione è fissata per il 30 giugno, sia per i campionati sia per le coppe europee. Ripeto, tutto legato al momento in cui poi si inizierà davvero a giocare, però al momento la deadline è fissata al 30 di giugno. È una linea molto sottile questa, perché di fatto è una linea che allarga di un mese quello che era il calendario. Non avremmo avuto la finale credo il 30 maggio, se non sbaglio, di Champions League come ultimo atto della stagione. È chiaro che ci si possono inventare delle cose. Beh, ballano aspetti giuridici in questo. Sì, che però ecco, sono... diciamo, tra tutte le cose i playoff mi sembrano quella in assoluto più ardita. Detto questo, poi se li faranno sarà anche divertente commentarli e viverli, cioè sarà una forma di interesse. Però insomma vedo tante complessità sui playoff di tutti i tipi, prima di tutto quella di carattere strettamente sportivo. No, perché però comunque... c'è anche carattere giuridico, perché i contratti scadono il 30 giugno normalmente. È chiaro che certo, è un ostacolo aggirabile, però bisogna tenere conto anche di questi aspetti giuridici. Allora, tu i playoff, la tua opinione sui playoff qual è? Beh, diciamo che se rimarrà poco tempo... può essere una soluzione più che accettabile, perché se bisogna fare tutto in pochissime settimane o tutto in pochissimi giorni, cioè, a me la cosa che preoccupa veramente, siccome c'è, cioè, la situazione veramente, no, clinica, diciamo così, del paese, perché adesso insomma io non so quando ne usciremo, perché noi parliamo della Lombardia adesso, ma io non so cosa succederà, no, nelle altre regioni, spero nulla, ma non lo so, cioè addirittura si parlava di iniziare il campionato ad aprile, ma io il mese di aprile lo vedo perso, però ripeto, opinione personale, sì. È una soluzione molto intelligente quella pensata, no, dal presidente federale Gravina, perché se in pochi giorni, in poche settimane si dovrà decretare un campione d'Italia, cosa si può fare? Forse è meglio playoff che dichiarare una squadra campione senza aver tentato tutte le altre, può anche non assegnare il titolo, congelare le posizioni per le coppe europee, tenere, fare una stagione prossima con 22 squadre, non lo so. Sì, beh, nel caso in cui non è ovvio, nel caso in cui non sia... La verità è che non c'è una soluzione perfetta, perché siamo in emergenza, e ripeto, di fronte a quello che stiamo vivendo è veramente un tema secondario, però bisognerà trovare una soluzione. Certo, c'è anche da capire come si tornerà, quando si tornerà, perché insomma adesso qualche segnale, aspettiamo le 18 di oggi, qualche segnale negli ultimi giorni, nelle ultime ore da parte dei matematici, degli epidemiologi, non riesco a dirlo, qualche segnale incoraggiante che potremmo avvicinarci a questo maledetto picco, ce l'abbiamo, incrociamo le dita. Il punto è anche capire il dopo, perché poi ancora di questo virus si sa poco in termini di possibilità di riammalarsi, di di positivi asintomatici, che è il vero grande problema. Io intanto, permettimi di salutare anche Gianni De Biasi che ci ha raggiunto e ci sta ascoltando. Ciao Gianni. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Ciao mister. Ciao. Chiudi il ragionamento, Pier, poi sentiamo cosa... No, che appunto ci sono ancora molte cose di questo virus da capire. Capire per esempio se chi si è ammalato può essere nuovamente infettato da questo virus. Capire realmente se ci saranno gli strumenti per poter mandare in giro gli asintomatici, perché quello che si è visto, che in qualche modo era prevedibile, ma quello che si è visto a Vodi Brenta è che tra il 50 e il 75% delle persone sottoposte a tampone erano positive, quindi anche tantissimi asintomatici, capisci che ricominciamo da capo se li rimandiamo in giro, no? È chiaro che in Cina hanno ricominciato, ma molto gradualmente, come ci raccontava Cannavaro. Sì, è chiaro che poi la situazione clinica, medica, la situazione dell'emergenza è un'altra storia. Gianni, Alessandro Lacciato ci sta disegnando lo scenario che sta emergendo dall'UEFA, scenario credo obbligato, però credo anche che sia giusto ora programmare quello che sarà al momento della ripresa. Sì, però è difficilissimo, Carlo, è difficilissimo perché è la prima volta. Ci sarà un calcio prima del coronavirus e un calcio dopo il coronavirus. Ci saranno delle relazioni prima del corona e dopo il corona. Io credo che in questo momento anche chi è preposto a prendere decisioni non è che abbia in mano una patata facilmente gestibile. Credo che da questo punto di vista qui la cosa importante secondo me è di mettere in sicurezza la popolazione italiana e di non far rischiare i calciatori, che non sono degli immortali ma sono esattamente delle persone come tutti gli altri, magari avranno qualche anticorpo in più, qualche difesa immunitaria in più, ma credo che dobbiamo avere veramente un occhio di riguardo prima di tutto alla salute che all'interesse singolo o di squadra o di bandiera. Io credo che in questo momento sia una lotta che stiamo giocando in chiave europea, siamo partiti male secondo me, però tutto sommato vedo che si stanno allineando un po' tutti, tranne gli inglesi che sono da sempre, hanno voluto uscire hanno fatto la Brexit e quindi hanno pensato bene di stare fuori dal discorso nel cercare di rimettere a posto la situazione, di evitare il contagio. Comunque questa è una loro strategia, poi il tempo dirà chi avrà avuto ragione nelle strategie. Un'ultima cosa volevo chiedere a Alessandro Lacciato, prometto è l'ultima, poi ti lascio ai collegamenti di Sky che immagino anche lì ne avrai da fare per tutto il giorno. Allora, ieri Ettore Messina ha detto: fermiamo tutto fino a quando sarà possibile riprendere in condizioni normali con tutte le componenti del gioco. Immagino che anche lì all'UEFA siano di questa idea, cioè non si parla di ripresa sincopata, porte chiuse, eccetera, eccetera, no? Esatto, anche perché immaginati un solo giocatore di nuovo positivo quando si dovesse riprendere. Il giorno dopo si riferma tutto, perché si ferma la squadra di quel giocatore, si ferma la squadra che ha giocato contro quel giocatore, magari si ferma la squadra che la settimana prima ha giocato contro la squadra di quel giocatore. Quindi è un rischio che non ci si può permettere. Per quello che dico che i tempi al momento, cioè ci sono fatte tante ipotesi, le hanno fatte in Lega Serie A, le hanno fatte in UEFA, ovviamente ci mancherebbe altro, ma non ci può essere certezza per quello. L'unica certezza è che si inizierà quando il rischio di avere dei contagiati, non dico sia zero, perché poi lo zero probabilmente non lo raggiungeremo mai, ma sia poco superiore allo zero, perché un solo calciatore contagiato vorrebbe dire rifermarsi dopo un secondo, che è la situazione che stiamo vivendo adesso. Grazie Alessandro, grazie davvero. Grazie a voi. Ciao. Siamo d'accordo, no, su questo, cioè anche tu Gianni, riprendere quando ci saranno condizioni di normalità totale. Prima di, tu, Carlo, prima di tutto l'integrità fisica dei calciatori è rischio zero, ma poi anche il problema del contagio, perché i giocatori non sono delle persone che stanno sotto delle campane di vetro, vivono con delle altre piccole comunità che a loro volta poi propagano eventualmente un altro contagio. Abbiamo fatto questo sforzo, lo stiamo facendo tuttora, siamo forse neanche siamo all'inizio di questo grandissimo sforzo, perché pesa a tutti, a me pesa, ma lo faccio mio malgrado e sapendo anche che posso apportare un contributo da questo punto di vista. Credo che tutto sommato dobbiamo cercare di prefigurarci davanti un cammino discretamente lungo, sperando che poi ci vengano dietro un po' tutti e da lì in avanti poi cercare di capire come comportarci in futuro. Comunque grandissimi cambiamenti anche nello stile di vita delle persone. Sì, certo. Sì, questo no, ma fino a quando non avremo un quadro sulla possibilità di ricontagiare, cioè un conto è se questo virus nel tempo dovesse ammorbidirsi, per cui poi a maggio-giugno anche chi si dovesse ammalare avrebbe effetti meno gravi, ma se il virus rimane quello che è, o addirittura peggiora nella sua evoluzione, cosa che non è del tutto da escludere a sentire Bregliasco, Burioni, tutti questi virologi che sentiamo, è chiaro che il punto interrogativo rimane. Vabbè, chiaro, il punto interrogativo non lo possiamo levare. La prima battaglia è contenere il numero dei morti e contenere il numero dei casi in questo momento, e da questo punto di vista speriamo che i prossimi giorni ci diano qualche segnale positivo, ma poi è ovvio che non è che puoi pensare di ricominciare la normalità della vita se si rimane in una situazione in cui un asintomatico può infettare un'altra persona, perché sì, è evidente. È tutto molto chiaro. Fammi fare invece a Gianni De Biasio una domanda proprio da campo, da allenatore. Sarà nel momento in cui riprenderà prima o dopo un surreale precampionato con i titoli in ballo quello che ci aspetta, Gianni? Dipende da come verrà gestita questo momento. Io credo che in questo momento ci sia la necessità che i calciatori stiano individualmente nei loro domicili, che si tengano in esercizio individualmente come meglio possono. Credo che ci siano tanti di quegli strumenti per poter mantenere una forma cambiando dalla dieta. Nel tempo stesso credo che poi una squadra che aveva già degli equilibri, aveva già delle conoscenze che durano già da 6-7 mesi abbondanti, credo che non abbiano problemi poi a rimettersi subito in tiro. È chiaro che ci sarà qualche piccolo scompenso, ma è una cosa che vale per tutti, quindi partiamo tutti dalle stesse condizioni. Sì, e in linea di principio eventualmente. In linea di principio sì, vai Piero. Dico, secondo me se si ricomincerà sarà come un grande time out. Ad esempio io credo che la Lazio, che è l'esempio più eclatante, e anche l'Atalanta, che sono due esempi più eclatanti di squadre in grandissima condizione, in grandissima forma, insomma, al di là del fatto che, ripeto, stiamo parlando di banalità totali rispetto alla vita delle persone, questo lo ripetiamo fino allo svenimento, all'infinito, però dal punto di vista, secondo me, agonistico, le squadre che stavano vivendo un'onda lunga così positiva potrebbero essere un po' danneggiate, perché è chiaro che si ricomincia da capo, quindi magari la magia... in linea teorica hai perfettamente ragione, però io credo che quelle squadre lì abbiano già una loro consistenza, abbiano già creato un qualcosa di grande, che per quanto ti fermi è una squadra che bene o male riesce poi a esprimere quelle potenzialità che stava esprimendo prima. Non credo che ci sia un grandissimo scadimento di condizione. Il problema principale è quello di riassettare il cervello per una cosa che sembra importante, ma rispetto alle problematiche che ci troviamo adesso sembra una sciocchezza, tanto per essere molto chiari. No, ma guarda... Anche perché poi noi non dobbiamo sottovalutare il fatto che comunque sia questo tipo di virus colpisce tutti, nel senso che tutti siamo partecipi, tutti siamo impauriti, credo che siano pochissime le persone che non hanno un familiare, un amico, una persona che hanno conosciuto, che magari è stata infettata, che è positiva, che magari sta bene a casa, però comunque no, ti mette in apprensione. E le stesse squadre di calcio, gli stessi calciatori, insomma, immagino che comunque, anche se ci rassicurano e ci fa enormemente piacere sulle loro condizioni, però ci sono dei positivi. E immagino che anche quelli che in questo momento stanno bene, che non hanno fatto il tampone, che è tutto a posto, che perché non hanno incontrato gli altri, però vabbè, la preoccupazione che, le preoccupazioni cioè, generali che abbiamo noi le hanno fatalmente pure è loro, è una cosa completamente diversa da tutti gli altri traumi, cioè, non, è, non è un attentato, non è un terremoto, non è una situazione che riguarda solo un pezzetto del mondo dove al di là della solidarietà, del dolore, chiaro, poi alla fine dici vabbè poveri, no, ma guarda è anche dal punto di vista tutti, anche i calciatori, dal punto di vista anche proprio prettamente agonistico, prettamente professionale, leggevo l'altro giorno Gianni per chiudere un'intervista di Dovizioso che diceva beh noi insomma siamo in una situazione strana perché noi siamo quasi programmati per correre o per giocare in questo periodo dell'anno, è come se fosse un chip che ci dice ok in questo momento dovresti essere in attività, ora lo spegni e poi ti devi resettare. Sì, il problema sai qual è Carlo? Che in una competizione normalmente tu sai chi è il tuo avversario, il Dovizioso sa chi sono i suoi avversari, sì, sì. Noi non conosciamo il nostro avversario, abbiamo un avversario invisibile davanti che puoi essere tu che mi stai parlando a un metro, chiaro, di distanza che stai benissimo, come diceva anche prima Piero, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, e quindi è una cosa che anche a livello psicologico ti difendi da tutti quelli che ti stanno intorno, che ti stanno vicini, che ti possono contagiare da un momento all'altro, è una situazione veramente difficile da poter gestire. Perfettamente fotografato, grazie Gianni, alla prossima. Grazie a voi. Ciao, ciao Gianni, ciao Pier, saluto anche te, poi mi tuffo in altre cose. Ah va bene, c'è un Bartour? No? Bartour. Ah beh, qualità, ciao. A domani, ciao. Con 12 giornate ancora da disputare, come si può pensare di finire questo campionato? E poi voglio dire, la gente con che spirito poi il giorno dopo torna ad affrontare, ad andare per gli stadi o quant'altro? Che finiscano qui il campionato con già le posizioni e morta lì. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Siamo stati colpiti, ma siamo consapevoli. Siamo distanti, ma siamo uniti. Siamo italiani. Venerdì 20 marzo, ore 11, alza il volume della tua radio. Esci sul balcone, sventola un tricolore o ciò che ti fa sentire italiano e canta. Canteremo tutti insieme. Tira fuori tutto. La speranza, la voglia e la forza e l'orgoglio di essere italiani per sentirci più vicini. Per la prima volta nella storia, tutte le radio unite sono con te. La radio per l'Italia. E ricorda, andrà tutto bene. Convocati. È meraviglioso trovarsi il martedì pomeriggio a quest'ora a farci compagnia tutti insieme nell'unico bar rimasto aperto, il Bar Tour. Buon pomeriggio ragazzi, Leo Torrini, Marino Bartoletti, ciao. Buongiorno, buongiorno. Peccato che non abbiamo sentito le parole di questa canzone premonitrice. Tutti abbiamo visto il video di Bill Gates che 10 anni fa diceva cose sicuramente inquietanti se rilette e riascoltate adesso, però provate a sentire anche gli Europe, non dicevano delle cose banali. Fra l'altro, apro una parentesi, questo brano ci ricorda anche un momento festoso del nostro calcio, perché all'indomani dello scudetto della Sampdoria, forse l'ultimo assegnato con una wild card nella storia del calcio italiano, Mancini, Vialli, Lombardo si travestirono da Europe e cantarono questa canzone che ha dei significati anche inquietanti, e l'avevano detto 20 anni prima di Bill Gates. Leo, la notizia è che in cosa sulla Piero Cormano non ci sei più al momento. Io mi auguro invece che un giorno non lontano possano di nuovo determinarsi quegli ingorghi mostruosi sulla Piero Cormano. Adesso ragazzi, sulla Piero Cormano davvero non c'è più nessuno, ma è bene che sia così perché dobbiamo stare in casa, siamo tutti agli arresti domiciliari. A me fa molto piacere sentirvi perché, come sapete, io e Marino siamo ultracentenari, quindi siamo in una condizione particolarmente a rischio, e allora spendiamo anche una parola per i nostri anziani. Io ormai sono quasi 2 settimane che non posso più vedere la mia mamma che ha quasi 93 anni, è in isolamento precauzionale, ma anche lei ascolta Carlo Genta e quindi insomma approfitto della circostanza per salutarla. Da qui. Un tormento. Carlo, tormento. Cosa gli fai alle signore anziane? Tu dicelo, dici il segreto. No, invece vorrei accodarvi con voi all'urlo del tuo amico Roberto Mancini, caro Marino. Beh, non lo facciamo quest'anno, vinceremo l'anno prossimo. Ma meraviglioso. Guarda, io sai che adoro Mancini e non da oggi, perché mi sembra che il mio affetto nei suoi confronti. L'ho detto ieri, mi è sembrato bellissimo quella, voglio dire, quella manciata di, comunque di ottimismo, di buon umore, perché ci vogliono queste cose, ci vogliono come non mai. Sai che ho ripescato una copertina del Guerin Sportivo esattamente di 30 anni fa, perché eravamo alla vigilia dei mondiali, più o meno fra febbraio e marzo del 1990, e c'è una copertina che gli ho mandato stamattina, poi abbiamo cazzeggiato un quarto d'ora sull'argomento, che diceva Roby, l'uomo del momento. Penso un po', penso un po'. Beh, e lo è ancora perché trasmette tanta positività. Io, come dire, sono disarmato nei suoi confronti perché è un commissario tecnico straordinario e vedo che per fortuna incominciano a traballare le balestre del carro dei vincitori. Non ha ancora vinto nulla, però ha dimostrato tante belle cose. Però questo atteggiamento di positività, se possibile, ce lo rivaluta ancora di più. Sì. E la positività sta nel fatto che con enorme gioia non faremo le vacanze estive, caro Turrini. Beh, intanto diciamo però che Marino giustamente ha ricordato una copertina del Guerino quando io e lui avevamo già quasi 70 anni, cioè del 1990, ma io vorrei dire che come esempio di positività una sera io e Marino ci trovammo a cena con Vittorio Pozzo, ti ricordi Marino? Come no? Mi pare fossimo lì nella seconda metà degli anni 30, no? E anche Vittorio Pozzo già all'epoca diceva state in casa e ce la faremo. Allora io mi unisco a questo ricordo che ho insieme a Marino del grande Pozzo, di Mancini e così via, stiamo in casa, ce la faremo sul discorso che non avremo estate senza pallone, io aggiungo semplicemente magari perché è giusto che anche per cercare, come dire, un motivo di speranza si facciano tutti questi discorsi su possibili calendari alternativi. Avendo la consapevolezza che navighiamo assolutamente tutti nel buio. Chiaro Leo, chiaro, sì, Leo, però è giusto, bello anche fare piani per il futuro. Guarda, sai, no, io sono molto contento però che l'UEFA abbia preso questa decisione, l'abbia presa oggi. Insomma, si tratta di fare con serenità piani per il futuro. Lo dico per tutti noi, è giusto, anche quando dicono forse l'Europeo si terrà di un anno, oppure la stessa Olimpiade di Tokyo potrebbe essere rinviata. Dobbiamo cercare di darci un programma, una pianificazione, avendo la consapevolezza, però lo dico con molta serenità, che non è la nostra urgenza in questo momento. Ma è chiaro, Leo, questo è chiaro. A me a Marino, che eravamo come altri schiavi, mi ricordo che una sera facendo una serata, ti ricordi Marino strepitoso, no? Che schiavi aveva portato le tagliatelle da Bologna, e invece Meazza aveva portato la cotoletta alla milanese e così via, e in questo momento abbiamo delle altre priorità, ecco, lo diciamo, abbiamo a cuore tutti qualcosa di diverso, di differente, sicuro. Speriamo davvero che ci sia un'estate nella quale invece si giochi a calcio in continuazione. Io vorrei vedere partite il martedì, il giovedì, il sabato, turni trisettimanali, hai capito? E poi ci troviamo in... Allora, quest'anno i tortellini in brodo della Ferrari si mangiano in pista, non si mangiano alla presentazione della macchina. Sai, noi della domanda, l'affermazione. L'affermazione? Natale si corre. No, chiedo subito la parola a Marino, però volevo dirvi, siccome prima è stato evocato Mancini, giustamente, con questa sua frase... Vinceremo l'anno prossimo. Guardate che noi della Ferrari lo diciamo dalla vita. Non avevamo bisogno di questa tragedia collettiva per dire vinceremo l'anno prossimo. Poi ti rispondo, Carlo, ma stavo riguardando questa copertina del Guerino. Il titolo esatto è Ma guarda che Roby, punto esclamativo. E Mancini, l'uomo del momento. Un'ultima appendice calcistica dall'alto dei nostri 120 anni. Tanto è chiaro che noi siamo tutti a rischio abbattimento, secondo quello che dice il signor Johnson. Dall'Inghilterra. La storia ci impone di ricordare che all'uscita dalla guerra mondiale, quando purtroppo erano andati sprecati non soltanto tre campionati, ma anche centinaia di migliaia di vite per quanto riguarda l'Italia, quello scudetto venne assegnato fra luglio e agosto. perché naturalmente fu molto macchinosa la messa in moto del campionato 45-46, si arrivò a un girone finale 8 squadre, vinse il primo dei 4 scudetti consecutivi il Torino, uno l'aveva vinto 3 anni prima, e lo vinse al termine di questo girone che finì esattamente fra luglio e agosto, quindi si può fare, ragazzi, si può fare, invece di andare a Cesenatico si può andare a vedere le partite. Premettendo un sacrosanto chi se ne frega, premettendolo sempre ad ogni discorso, però del fronte agonistico, del fronte gioco, eccetera, però playoff ti gusterebbe? Allora, Carlo, sai bene che la mia, che è la tua cultura sportiva, fa sì che io guardi con molta curiosità un'ipotesi playoff, per quanto creativa, per quanto complicata, e perché non ha torto naturalmente chi dice le regole vanno fissate prima, ma è chiaro che il coronavirus purtroppo non può essere previsto nelle regole, ma fra uno scudetto non assegnato, un campionato da coitus interruptus, non si capisce bene a quale momento, l'assegnazione sul campo come minimo potrebbe intrigare un pochino. Mi rendo conto che ci sono degli interessi anche, come dire, privati, per cui chi è in testa dice no, perché dobbiamo fare i playoff, oppure qualcuno dice, ho sentito dire, ma perché ci deve stare dentro l'Atalanta che ha 15 punti? L'hai detto tu prima, questa è la legge del playoff. Allora, se proprio questa fosse l'ultimissima ipotesi, premesso il famoso chi se ne frega, che naturalmente condiziona la nostra affermazione, io quantomeno lo guarderei con curiosità. Leo? Allora, guarda, noi poi dobbiamo anche renderci conto, facendo un discorso di carattere generale, tu Carlo in particolare sei un fanatico del basket, io vengo dal Modenese, adoro il volley, negli altri sport di squadra, i playoff, non per un'emergenza, ma per cultura acquisita, derivata dagli Stati Uniti, fanno parte del nostro costume nazionale da decenni. Se ci si dovesse trovare, e sarebbe comunque una buona notizia perché vorrebbe dire che si è riusciti a ripartire, che quello è il modo ideale per assegnare per una volta lo scudetto nel calcio, perché no? Anche perché voglio dire, a scanso di equivoci, che vincerebbe comunque la Juventus anche con i playoff, quindi inutile che adesso state lì tutti a girare, tanto i playoff, perché così c'è la sorpresa dell'Atalanta, della Lazio, o dell'Inter. Ma che l'Inter? L'Inter verrebbe eliminata sicuramente nei quarti dei playoff, ma voglio dire, vincerebbe l'amichetto di Marino, quello che va in bicicletta con lui prima che tutto fosse bloccato, cioè Sarri, avete capito? Ecco fatto, anche con i playoff. Qualcuno mi ha scritto, si fa di tutto per uccidere la Juventus con i playoff, non è vero, naturalmente, quella Juventus, se terminasse al primo posto questa benedetta, maledetta stagione, avrebbe i privilegi di chi è terminato al primo posto. Ripeto, è chiaro che è una soluzione molto azzardata, antiregolamentare, antistorica, anticulturale per la Serie A, però uno scudetto assegnato sul campo, così come i rigori in fondo, diventa qualcosa di un po' più accettabile di una monetina. Esatto, è comunque una soluzione sportiva. Allora, traffico, torniamo subito, mentre mi scrivono che la Pergola Romana non è più la stessa senza di te, non faccio fatica a crederlo, caro Leo Turrini. Traffico. Bartù, sei unico, meno male che ci siete, ragazzi, Dio vi benedica. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Adesso è il momento di stare tutti in difesa. Io resto a casa. Facciamo gli auguri a questo signore, Marino Bartoletti. Che lacuna che avevamo avuto per 48 minuti di trasmissione. Come si fa a non fare gli auguri a Giovanni per i suoi 81 anni? E adesso ha scoperto anche i social, è scatenato. Io spero che nel sacco abbia una metafora, un motto, un qualcosa che ci possa fare stare meglio. Guarda, ti dico la verità, volevo farvi una sorpresa, lo stavamo cercando, ma non riusciamo a contattarlo, altrimenti gli avremmo fatti in diretta questi auguri. Giovanni Trapattoni, 81 anni meravigliosamente portati. A proposito di un altro signore in là con l'età, Bernie Eccleston, che ne pensi, Leo Turrini, della sua affermazione? Ma intanto volevo anch'io unirmi agli auguri per il trap perché quando debuttò sulla panchina della nazionale con una trasferta in Ungheria nel 2000, io ero sull'aereo con la squadra, mi avvicinai, mi inginocchiai di fronte, lui mi disse: ma perché fa questo? Io gli dissi: perché lei è l'ultimo allenatore che ha vinto uno scudetto con l'Inter. Lì erano già passati 11 anni e fu un momento indimenticabile. Detto questo, guarda, Eccleston a me è simpaticissimo. Che ha detto per la cronaca e per chi non avesse letto, questo Leclerc mica niente di... Appunto. Ma roba normale, un pilotino come altri. Ecco, Eccleston, che ha quasi 100 anni, a me è simpaticissimo, sgominerà anche il coronavirus. Penso però, al netto delle emergenze, che abbia perso una buona occasione per stare zitto, perché non ho capito con quale non autorità, ma con quale consapevolezza posso affermare che Carletto non è niente di che è un fenomeno mediatico pompato a dismisura. Io invece lo dico rimpiangendo le cose sulla Pero Cormano, quando l'anno scorso a Monza Leclerc ha tenuto in coda Hamilton in una gara che è stato uno spasmo infinito, lì anche chi magari non è ferrarista ha compreso che questo ragazzo ha, come diceva sempre mio coetaneo ultracentenario Balzoretti, una qualità, un talento naturale pazzeschi. E voglio dirvi una cosa che mi ha anche intenerito: sono stato al telefono con Leclerc e allora gli ho detto: sai, la mia mamma, che ho citato anche prima, ne ha quasi 93, e mi ha detto: ma a parte il virus, per veder vincere la Ferrari di nuovo il mondiale devo arrivare a 100 anni? E lui mi ha risposto: no, per carità, via la mamma, che faremo prima. Mentre... allora adesso c'è una condizione che non sappiamo nemmeno, ovviamente, come tutto il resto, quando questo mondiale di Formula 1 inizierà, ma io sono convintissimo che Leclerc è il predestinato, come si dice in Star Wars, The Chosen One, e quindi aspetto che anche a lui sia restituita, come ognuno di noi, la felicità di vivere emozioni quotidiane, normali, quelle che hanno sempre fatto parte della nostra esistenza e alle quali adesso dobbiamo rinunciare in nome del bene comune. Senti Leo, io ti giro al volo due WhatsApp che mi arrivano. Uno di Angelo da Cuneo, che mi scrive: se Leo Turini fosse appassionato di cricket ne imparerei le regole, e mi sembra veramente tanta roba, caro Angelo. Io so tutto di cricket, però ecco, volevo dirglielo. So tutto, è stato recentemente assegnato proprio pochi giorni fa il titolo mondiale femminile, ha vinto l'Australia. E vi dirò che ha cantato nell'intervallo della partita della finale mondiale di cricket femminile Kate Perry, e ha fatto una straordinaria versione di Roar. E visto che tu e Marino siete due pettegoli, sappiate che Kate Perry è incinta di Orlando Bloom, avete capito? Quello di pirati. Io e Marino Bartoletti siamo dei pettegoli. Noi. Lo vorrei anche aggiungere a beneficio di Marino, che giustamente insomma ci tiene a essere informato su queste cose, che pare che quando alcuni anni fa Kate Perry fece una data a Milano, uscì alla sera con Genta dopo il concerto. E su questo non, poi non è vero. Nelle prossime puntate non è vero. Sulle note almeno, ma non è vero. E c'è anche chi fa delle ricerche sul tuo conto, perché c'è chi ti ha conosciuto attraverso Tutti i Convocati, attraverso Bartur, il fantastico Turini che ho conosciuto grazie a Tutti i Convocati. Voi lo chiamate Leo, ma si chiama Leonildo, e questo a beneficio del pubblico. Sì, confermo tutto. Sono come nella Blitz si chiamava Leonilla, è un vento di quella parte della regione. Sono della stessa, voglio dire, terra di Nilla Pizzi e anche di Nilde Iotti, insomma. Sono sempre io, sono sempre quello, confermo tutto. Possiamo dire che al giovane, io quest'anno ho azzeccato molto facilmente una profezia anche a nome di Leo, che Leclerc avrebbe vinto la prima gara del mondiale quando la Ferrari avesse vinto una gara quest'anno. Beh, credo che sia facile dire che il successore, quando si farà da parte come campione del mondo di Formula 1, di Hamilton, sarà sicuramente Leclerc, a cui bisogna ricordare però, e anche a noi stessi, caro Leo, e anche alla tua carissima mamma, che noi ci arrivavamo nel 1979 quando Scheckter vinse quello che sembrava the final countdown, proprio l'ultimo titolo mondiale della Ferrari, dopo aver corso anche prima ancora con la Ferrari con 6 ruote, ti ricordi, no? Poi vinse quel 79, con poi, la Tyrrell in Svezia, come no? Poi successe di tutto, cioè, quegli anni c'era Lauda che correva col ventilatore, lui con 6 ruote, quella era veramente Formula 1. Poi aspettiamo aspettiamo 21 anni per veder vincere un titolo mondiale, a occhio e croce dovrebbe accadere prima. Per quanto riguarda Eccleston, appunto, volevo dirti, a Eccleston glielo dici tu quello, questa cosa la dici tu, no? Cosa? No, che Leclerc sarà il successore al trono. Leo è assolutamente d'accordo, come mio maestro e mio donno in questo caso. Per quanto riguarda Eccleston e le sue affermazioni, io parlo anche a nome di Leo con totale cognizione di causa. Dopo una certa età si rincoglionisce. Infatti, Marino, vedi che io e te facciamo sempre autocritica, no? Qui alla Corte di Gente, lo diciamo anche a chi ci ascolta pure oggi. Non è colpa nostra se abbiamo una certa età, io e Marino Bartoletti. Lui ha citato quando eravamo là che vinse Scheckter nel 79, ma io e Marino c'eravamo quando Froilán González, detto il Cabezón, vinse il primo Gran Premio per la Ferrari a Silverstone, quindi eravamo agli inizi degli anni 50, e già Marino diceva: però stasera ritiriamoci presto perché abbiamo una certa età, hai capito? Ma no, ma González aveva pure la pancia, se non ricordo male. Ti ricordi? Io avrei anche bevuto un whisky in più nel 51, Marino non ne voleva sapere, e andammo a letto presto. Senti, però ma... non sto bene con chi andò, io mi ritirai da solo. No, però piuttosto, Leo, come facciamo quest'anno con Marino? Giro d'Italia non lo so, non parte dall'Ungheria. Questo è certo, vediamo cosa succede. È un anche grande su dolore, un grande dolore. So che questa zia di Carapaz mi ha mandato l'altro giorno un WhatsApp dove diceva: il mio querido Marino, onde sta, onde sta? E io dicevo: e dove sta, e dove sta? E lì che sta delirando su Facebook, perché poi non lo sa nessuno, ma Marino su Facebook ha un trionfo epocale, su Instagram ancora meno. Non lo sa nessuno, ci ha fatto una pila di libri Marino. Lo sto dicendo io per chi non fosse ancora al corrente, hai capito? È giusto che si sappia. In più, visto che siete partiti, fate tanti gli sboroni con The Final Countdown Europe, ma chi c'era i cori? Marino, diglielo tu chi c'era ma i cori. Certo, ma certo, noi cantavamo... c'eravamo noi che cantavamo il pezzo We Are Living Ground. Che c'hai quel parruccone tu tutto biondo, no? Anche i baffi biondi avevo. Moretto. Sono il moretto al basso, sì, devo dire che con gli Europe ci siamo divertiti, io Marino, sì, se, lo riconosco. C'è chi mi scrive, ad esempio Fabrizio da Modena, quindi da casa tua magari lo conosci, che l'erede naturale di Hamilton è senza dubbio Verstappen, questo mi scrive. Opinione. Indiscutibilmente ha tutto come Leclerc per diventare un campione del mondo, perché ha la spregiudicatezza, ha il talento al volante, anche la lingua lunga, tagliente, come hanno spesso i giovani emergenti. Io spero che si possa vedere davvero, quando tutto questo incubo sarà alle spalle, un triello alla Sergio Leone, no? Il vecchio Hamilton accerchiato da Verstappen e Leclerc, e vediamo alla fine chi resta in piedi. Beh ragazzi, io chiudo, tiro giù la clera, abbasso la serranda, però con tutto il cuore vi ringrazio di essere sempre presenti, perché è stata la mezz'ora più bella degli ultimi 10 giorni, questa che almeno personalmente ho vissuto. Grazie Leo Turrini, Marino Bartoletti, grazie naturalmente a Carmelo Lauricella, Anita Panizza, Claudio Schiattone. Ci sentiamo domani alle 14 tutti convocati con il presidente federale Gravina, che sarà ai nostri microfoni, anche per vostre domande al telefono o via WhatsApp. Siamo qui. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.